Cari cristiani, è una gioia anche stasera per me commentarvi questo brano di Vangelo che è molto famoso e che viene citato, soprattutto da chi non conosce bene il Vangelo, alcune volte a sproposito. Alcune volte anche uomini di chiesa, per giustificare una propria reazione violenta, dicono anche Gesù nel Vangelo nel Tempio ha fatto così, così, ha scacciato i mercanti, e non comprendono che Gesù non ha mai usato la violenza e non la usa neanche in questo caso, se non per difendere Dio Padre. Solo perché lì trattavano male il Tempio di Dio, Gesù assume questo atteggiamento forte, deciso. Tutte le volte che hanno usato violenza contro di lui, li ha lasciati fare, fino a essere schiaffeggiato, sputato, coronato di spine e infine crocifisso. Ma Dio non poteva tollerare che fosse disprezzato in questa maniera. Perché? Cosa succedeva? Intanto bisogna dire, forse lo sappiamo, forse non lo sappiamo, che quando parliamo Gesù entrò nel Tempio, non dobbiamo pensare che entra come in una chiesa. Il Tempio di Gerusalemme era un complesso di edifici fatto da un corpo centrale, una piccola chiesa, piccola, suddivisa in due parti, ma che era circondata da un cortile, delimitato da un porticato, con un altro cortile esterno, con un altro porticato più ampio. Quello era il Tempio. Perché era fatto in questa maniera? Perché si offrivano a Dio dei sacrifici anche di animali, e non lo puoi fare in un locale, lo fai all'aperto. Come mai si offrivano a Dio dei sacrifici di animali? Forse a noi oggi può sembrare una cosa superata, ma vi dimostrerò che non lo è del tutto. Ma a quel tempo ritenevano di offrire a Dio come omaggio un bene che apparteneva a loro. È un capo di bestiame che fosse piccolo, come due tortore, come hanno offerto Maria e Giuseppe per il riscatto del loro primogenito Gesù, fino ad altri sacrifici di persone ben più abbienti, che magari offrivano in sacrificio un agnello, o addirittura un giovane bue, l'offrire a Dio qualcosa che ti è caro e ti è prezioso, dice: Dio mi è più caro, e gli sacrifico qualche cosa. Oltre a questo, questi animali venivano sgozzati, venivano bruciati in onore di Dio, affinché il fumo che salisse verso Dio fosse considerato un'offerta a Dio. Signore, come sale a te questo fumo, così salga a te la nostra preghiera. Questo c'è ancora oggi, Perché si usa l'incenso in chiesa? C'è per farmi tossire, dice qualcuno. No, per offrire al Signore come sale questo fumo profumato verso di te, così salga la mia preghiera come soave profumo al tuo cuore, o Signore. E infine il sangue ricavato da questo sacrificio veniva spruzzato, come fa il sacerdote oggi con l'acqua benedetta, sul popolo. Amici, sarebbe lunga fare un discorso, e dovrebbe il popolo cristiano fare catechesi su questo sangue, su questi riti. Amici, abbiamo bisogno di formazione cristiana. Abbiamo bisogno di studiare la nostra fede per comprendere. Del sangue ve ne parlerò un'altra volta, ma sarebbe interessante per capire la posizione dei testimoni di Geova, non per accettarla, ma per cercare di capire il perché. Dunque offrivano a Dio questi animali, queste offerte. Oggi non lo facciamo ancora? Certo che lo facciamo. Non offriamo più animali, magari vai, per grazia ricevuta, regali in un santuario un braccialetto d'oro della tua bambina. O per non fare questo, perché poi li rubano se sono esposti sulle statue, cosa fai? Magari fai un'offerta in denaro per i poveri. Certe persone fanno anche offerte molto sostanziose in onore di Dio. Non è la stessa cosa, amici? Perché quando noi abbiamo una gratitudine verso una persona o verso Dio, desideriamo, si dice, sdebitarci. Dunque, questo giusto per capire un pochettino il senso di questa reazione di Gesù, il quale dice: sta bene offrire a Dio questo, ma qui avete fatto un mercato. Chi si portava da casa l'animale, chi invece lo comperava sul posto. E si parla anche di cambiavalute, perché gli ebrei erano diffusi in tutto il mondo, portavano denari romani, greci, egiziani, e venivano cambiati per comperare questi animali da offrire a Dio. Gesù dice: no, dobbiamo cambiare tutto, non c'è più bisogno di questo sangue di animali. E dirà: ecco il sangue della nuova ed eterna alleanza, il suo sangue, versato per voi in remissione dei peccati. Ecco il suo corpo sacrificato per la nostra salvezza. Questo è il mio corpo dato per voi. Allora comprendiamo, amici, che la Santa Messa è la continuazione, è il perfezionamento, è tutto cambiare dei sacrifici del popolo ebreo verso Dio. Se voi state attenti, noterete nella Santa Messa tanti di questi termini: il sangue, la nuova alleanza, in sacrificio per voi. Cari amici, io non voglio farla più lunga, anche se ci sarebbero tanti spunti da sottolineare, no? Che c'è lì gente a cui non gli va mai bene e che capiscono sono i bambini. Osanna nell'alto dei cieli. E il Signore, di fronte a quei sacrifici, lui non ha ancora istituito la Santa Messa, quindi non c'è ancora il nuovo ed eterno sacrificio. Allora dice: offriamo a Dio non animali sgozzati, offriamo a Dio la gratitudine di persone malate, guarite dalla mia potenza. Guarisce tutti costoro che erano ciechi, storpi, si avvicinarono nel Tempio ed egli li guarì. Concludiamo. Anche oggi, amici, non è superato il gesto di offrire a Dio qualche cosa per sdebitarci. Può essere quell'offerta. In definitiva, amici, perché se facciamo celebrare una messa per i nostri defunti, facciamo sempre un'offerta? E la gente ci tiene, Io ho provato qualche volta, una persona che era arrivata nella mia parrocchia in segreteria dice: ma non c'ho niente da dare in offerta. Non importa, signora, la messa la celebriamo ugualmente. Ah no, se no non vale. È sbagliato questa risposta, se no non vale, la messa vale ugualmente. Però è così dentro nel popolo cristiano l'offrire qualche cosa a Dio. Perché offrite la lampada della presenza? Perché offrite una candela davanti? Perché è innato dentro di noi di offrire in onore di Dio qualcosa. Beh, cari amici, impariamo a offrire la Santa Messa, che vale infinitamente di più. Io non mi stancherò di ripetervi, anche se sono così poco ascoltato, imparate ad andare di più a messa anche nei giorni feriali. Almeno qualche giorno in settimana. Ma offri il tuo tempo. Non offrire un animale o il sangue di questo animale. Offri il tuo tempo. Offri la tua vita che vale di più. Perché la Santa Messa, andare anche in giorno feriale, non è una pia e buona azione, ma il partecipare al sacrificio eterno offerto da Gesù Cristo al suo Divin Padre. E così sia.